non piangere più, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso dolce mia fanciulla m'ascolta, il tuo signore sarà domani, forse solo al mondo non lo lasciare. No,

Vieni, oh carcere nacqui, m'educava il deserto, sol vivo perché ignota e mia regale stirpe, i miei parenti sognarono le trane.

感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。 aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sa, chi sa, che faccia vivo. Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povertà mia lieta. Per sogni e per chimere, e per castelli di aria. Pourquoi faut-il

Un dì all'azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viole pioveva oro il sole e folgorava d'oro il mondo pare alla terra un immane tesoro Giovinetta

我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照。